Radio 24 Reportage. Volare con Luca Parmitano di Gigi Donelli. Un saluto ai nostri ascoltatori, benvenuti a un nuovo appuntamento di questo spazio dedicato ai reportage che questa mattina dedichiamo a un incontro mi permetto di dire con un amico di Radio 24, un amico di molti italiani hanno seguito nel corso di questi ultimi 3 anni la sua attività internazionale da un lato, attività soprattutto spaziale. Luca Parmitano è ancora con noi, buongiorno, bentornato innanzitutto. Buongiorno, grazie dell'invito e soprattutto buongiorno agli ascoltatori. Allora, gli ascoltatori che in queste ore hanno risentito parlare di spazio, naturalmente seguendo un nuovo lancio, una missione che riguarda la tua teammate, la tua, devo dire, compagna d'avventura in questi anni, Samantha Cristoforetti, e forse comincerei proprio da qui. Allora la domanda è secca: quanta invidia provi in queste ore? Questa è una bellissima domanda che mi permette di dare una risposta dal profondo del cuore, che quando si prova gioia per i successi altrui e per soprattutto per persone che si conoscono e si stimano, l'invidia veramente non trova posto nel cuore delle persone. E siccome ho avuto e ho un'avventura piena di soddisfazioni, ho avuto il mio volo, continuo a essere impegnato, continuo ad andarmi da fare, posso solo gioire per Samantha, che oltre a essere una collega e un'astronauta straordinaria è soprattutto un'amica. Io credo che sia quello il valore aggiunto, per cui l'ho seguita dal lancio, l'ho seguita in questi giorni e sono felicissimo per lei. Ovviamente io parlo di invidia buona, è come il colesterolo, c'è quello cattivo ma poi abbiamo imparato anche a conoscere, insomma un desiderio di essere lassù, mettiamola così, però ci sarebbe ancora. Oppure quello, i tuoi 6 mesi hanno esaurito il tuo desiderio di spazio? No, tutt'altro. hanno veramente giusto rafforzato il mio appetito di esplorazione, il desiderio di tornare su, di andare, di vivere in nuovi in orbita, di fare altre esperienze in assenza di peso, di vivere sulla stazione. Quel mal di spazio è iniziato nel momento in cui si è aperto il portello della Soyuz e sono ridisceso con i piedi per terra, ed è da allora che tutti i giorni penso a quello che ho fatto, a quello che farò, insomma, anche se chiaramente continuo a vivere la mia esperienza post volo in maniera positiva, in maniera attiva, chiaramente penso all'esperienza passata e mi preparo a quella futura. Immagino anche con orgoglio. A proposito, cosa si fa dopo una missione di 6 mesi nello spazio? Lo ricordo, tra l'altro Luca Parmitano ha all'attivo il fatto, direi, straordinario di essere il primo italiano a aver fatto l'EVA, quindi ad uscire dalla Stazione Spaziale Internazionale. Ma dicevo, non deve essere facilissimo rimettere i piedi per terra. Non lo è certamente, è una domanda che tutti noi che facciamo questo mestiere così straordinario, una domanda che ci facciamo: cosa faremo dopo? In realtà fortunatamente il nostro lavoro non si esaurisce nel volo in orbita, ma ha tutta una serie di aspetti che vengono svolti a terra, che sono altrettanto importanti, per certi versi sono forse più importanti per lo sviluppo vero di quello che poi noi andremo a fare come futuro. E perché io rientrato a terra ho iniziato tutta una serie di debriefing in cui ho passato la mia esperienza, la mia expertise nel parlare di quello che era andato bene, di quello che non è andato così bene, come fare per migliorare ulteriormente l'esperienza per chi viene dopo di noi. Inoltre tutta la mia esperienza acquisita deve essere trasferita a chi ancora non ha fatto un volo nel mio ruolo da istruttore di attività extraveicolare, istruttore di attività robotica, nel mio ruolo di Capcom, ovvero quello che è l'unico autorizzato a parlare con l'equipaggio dal famoso centro di controllo di Houston. La famosa voce che risponde alla chiamata Houston, abbiamo un problema, ad esempio, è un Capcom, un Capsule Communicator, e io sono qualificato anche in questo ruolo. E poi, insomma, il lavoro non finisce mai: revisione di procedure, approvazione di procedure, revisione di esperimenti, di come gestire gli esperimenti, riunioni in cui si decidono anche aspetti che avranno un loro valore nel futuro. Insomma, il lavoro non finisce mai. E fra l'altro in tutto questo io cerco anche di spendermi nella comunicazione per passare anche la mia storia al grande pubblico. Ecco, a proposito di storie, Luca Parmitano nel frattempo è diventato, oltre che esploratore e astronauta, e ripeto, primo astronauta italiano a fare attività extraveicolare, è diventato ambasciatore europeo ma anche scrittore. Facciamo un punto su quest'ultima attività, un libro. Un libro che è nato in orbita, di fatto è un libro che è stato scritto per la maggior parte in orbita, ed era le cui storie erano già state raccontate bits and pieces, come si suol dire in inglese, a pezzettini, nel mio blog che gestivo dalla stazione spaziale internazionale. Ricordiamo il titolo del libro. Il titolo è Volare, 166 giorni con Astro Luca, che raccoglie un po' tutto. Volare è il nome della mia missione, è anche quello che io faccio per lavoro, e poi 166 giorni è il numero di giorni che ho passato in orbita con Astro Luca, perché questo libro è basato moltissimo sul fenomeno dei social network. Ecco, tu sei stato molto attivo, ma io ho una domanda che, perdona, sarà banale, ma come funziona la navigazione in orbita? Cioè, tu accedi Wi-Fi? Com'è? Effettivamente un trucco ci deve essere, perché per poter accedere a internet ci vorrebbe un cavo, però un cavo che si arrotoli intorno alla Terra seguendo la stazione non esiste. Disturberebbe. Quindi come hanno fatto i nostri geniali scienziati e tecnici della NASA? Con un programma che è possibile trovare anche a Terra, attraverso il quale si riproduce sullo schermo di un computer quello che sta avvenendo su un altro computer, una specie di remote control, noi ci collegavamo con questo programma attraverso un segnale radar, ovvero un segnale satellitare, ci collegavamo con un computer che era a terra, Houston, collegato a internet. Quindi io sul mio schermo, sulla stazione, vedevo il fantasma di un altro computer che certo, invece era a terra. Il quando remoto. Muovevo il mouse a bordo della stazione, in realtà muovevo il mouse di un computer a terra, e in quel modo interagivo con tutti i miei follower. E ciascuno gestisce in autonomia, cioè ciascun astronauta a bordo accede, cioè non c'è la coda, non c'è la cabina. Assolutamente, ognuno dentro la sua cuccetta, chiamiamola così, dentro la sua, quella che sarebbe l'equivalente di una cameretta, che in realtà è grande come un box doccia o una cabina telefonica, per chi ancora la ricorda, dentro abbiamo i nostri computer, ne abbiamo due, uno che è collegato alla rete di bordo della stazione e un altro, questo qui, con cui si accede invece a questo programma che permette di replicare un computer di terra. Quindi uno può anche skypare? Allora, non è possibile fare un servizio Skype, perché semplicemente la velocità del segnale non è abbastanza per sostenere una chiamata Skype, ma siccome abbiamo un altro tipo di protocollo internet che ci permette di fare telefonate, in realtà è ancora meglio che lo Skype. Da un punto di vista audio era una chiamata molto molto buona come qualità. Invece per quanto riguarda una videoconferenza, il fine settimana attraverso Houston, quindi attraverso il centro di comando e controllo, è possibile fare anche delle videochiamate. Nel fine settimana, un po' come si faceva una volta, no? Che si faceva la chiamata ai parenti nel fine settimana, adesso esatto, c'è questa esatto. relazione. È la stessa cosa, solo che è una videochiamata ai parenti dall'orbita. Allora, piccole curiosità per noi terrestri, esperienze e relazioni, ecco, si sta chiusi con un gruppo di persone che, per carità, immagino si conoscano, però... come accade, no? Si dice che la barca a vela è il modo migliore per conoscere le persone, magari per interrompere delle amicizie, immagino in orbita. Certamente, è vero che le relazioni vengono messe, non a dura prova, ma vengono messe alla prova in un ambiente così circoscritto, in un arco di tempo così lungo, però innanzitutto la Stazione Spaziale Internazionale non è una barca a vela, ha il volume del 747, è possibile passare giornate intere lavorando in un modulo senza incrociare nessun altro. In realtà noi abbiamo la capacità di avere della privacy, perché abbiamo le nostre cuccette in cui è possibile trovare se stessi, riposarsi, in qualche modo rilassarsi. Abbiamo poi un volume molto grande nel quale ci si incrocia, nel quale si lavora, ma soprattutto, e credo che questo sia l'aspetto più importante, gli astronauti di ultima generazione, chi fa voli di lunga durata è stato selezionato per questo motivo, e diciamo che l'aspetto psicologico comportamentale è stato pesantemente utilizzato nella selezione, nei criteri di selezione degli astronauti. Certo, non venite mandati a caso in queste missioni. Esatto, siamo stati selezionati proprio per la nostra capacità di adeguarsi. E questo ci porta alla nostra ultima domanda, ultima solo perché il nostro tempo sta per finire. Ecco, voi vi preparate a lungo a terra, dopodiché andate in orbita. Si può dire che in questa vostra preparazione psicologica la permanenza in orbita sia una sorta di master, in cui è vero che arrivate preparati, però poi si scopre davvero qualcosa di nuovo? In realtà io ho scoperto questo, che dopo lunghi anni di addestramento, perché sono veramente intensi, pieni di attività, sempre diversi, sempre sicuramente entusiasmanti, ma anche difficili, pieni di esami, pieni di in cui l'astronauta è sempre messo alla prova, in cui è sempre sotto osservazione, il momento in cui si va in orbita è quello più semplice, perché finalmente è come se non dovessimo più dimostrare nulla a nessuno, siamo lì dove abbiamo sognato di essere per tanto tempo, in una condizione che abbiamo sognato e per la quale ci siamo addestrato, senza togliere però nulla all'esperienza acquisita al tesoro di valori, di esperienze, di strumenti che si imparano negli anni di addestramento, così come quelli che vengono dopo, perché comunque insegnare, donare, condividere vuol dire moltiplicare questo bagaglio di esperienze personali che si sono acquisiti. Insomma, ogni stagione ha la sua bellezza. Grazie a Luca Parmitano di essere stato ancora una volta con noi, e l'augurio non può essere che l'augurio di mille di queste missioni, magari mille no, ma qualcuna, e chissà appunto quanta passione, quanta esplorazione continuerà a portare con sé. Grazie a Luca Parmitano. Grazie a voi, grazie per l'invito e grazie a tutti gli ascoltatori. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.